Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. L'Italia cresce meno dell'Europa, Bruxelles e la Germania, locomotiva per uscire dalla crisi. Scomparso un balcone in difficoltà nelle acque di Lampedusa, oltre 1000 profughi in arrivo. 87 morti in un attentato in Pakistan, i talebani la prima vendetta per la morte di Bin Laden. Campagna elettorale, oggi ultimo giorno, appelli e polemiche. Buongiorno dalla redazione, buongiorno da Anna Migliorati. La Germania cresce nel primo trimestre dell'anno dell'1,5%, la Francia dell'1%, la Spagna dello 0,3%. In Italia il PIL, secondo i dati preliminari dell'Istat, sempre nel primo trimestre è cresciuto dello 0,1% rispetto all'ultimo trimestre 2010. Sono i dati che fotografano la situazione europea nel giorno in cui la Commissione europea da Bruxelles ha presentato le previsioni economiche di primavera. There are important risks and vulnerabilities. Nel 2012 il PIL dell'Eurozona tornerà ai livelli pre-crisi, ha detto il commissario europeo Olli Rehn. Queste, le ho sentite, sono state le sue parole in conferenza stampa, però sono arrivati appunto dei distinguo tra i diversi paesi. Allora andiamo a Bruxelles da Antonio Pollio Salimbeni. Buongiorno. Buongiorno a voi. Noi dicevamo la Germania locomotiva, l'Italia cresce meno dell'Europa. È così? Sì, è così. D'altra parte non è un dato nuovo, era stato segnalato anche recentemente dal Fondo Monetario, dall'OCSE, e la Commissione Europea conferma questo dato. In effetti per l'Italia la previsione per il 2011 è confermata quella che la stessa Commissione all'inizio di febbraio aveva pubblicato: crescerà quest'anno dell'1%, l'anno prossimo dell'1,3%. Il divario con l'Eurozona è diciamo di quasi mezzo, un po' più di mezzo punto percentuale quest'anno e lo stesso l'anno prossimo, insomma c'è un divario di crescita. Naturalmente la Germania fa più dell'Italia, cresce più velocemente, è cresciuta più velocemente nel primo trimestre e crescerà più velocemente anche nel corso dell'anno, chiuderebbe l'anno al 2,6%, ben 1,6% in più di quanto cresca il nostro paese. La Commissione europea ha puntato anche il dito sui conti pubblici, sul debito. Intanto va detto che secondo le previsioni pubblicate stamattina l'Italia potrebbe, non centrerebbe, stando a questa stima, non centrerebbe l'obiettivo nel 2012 di portare il deficit in rapporto al prodotto lordo sotto il 3%, restandone al di sopra, 3,2%. La motivazione è che la Commissione europea ha dei dubbi sull'efficacia delle misure anti-evasione fiscale. Va detto per la verità che la Commissione europea non tiene mai conto degli effetti di quelle misure che sono avvolte nella totale incertezza come questa. In ogni caso il commissario agli affari economici Olli Rehn non si è dimostrato particolarmente preoccupato per questa situazione, ha invitato comunque l'Italia a cominciare a ridurre celermente il debito pubblico che resta al secondo posto, è il secondo debito più alto in Europa e nell'Eurozona, subito dopo quello greco, visto che questa riduzione è imposta dal nuovo quadro di governance economica. Grazie ad Antonio Pollio Salimbeni. E intanto in Italia questa mattina di crisi aveva parlato il ministro dell'economia Giulio Tremonti. La crisi secondo me è come dire, come un mutante. Io ho sempre detto e continuo a dire, è come un videogame, arriva un mostro, lo batti, ne arriva un altro più grande di quello prima. Noi sappiamo che cosa dobbiamo fare, essere tranquilli, forti e andare avanti, poi vediamo come si sviluppano le cose nel mondo, non dipende più da un paese solo o da un governo solo, il mondo è diventato unificato. E c'è un'altra emergenza intanto in queste ore nel canale di Sicilia. 7 barconi sono stati individuati in arrivo dalle coste libiche, di uno si sono perse le tracce, a bordo ci sarebbero anche molte donne e bambini. Sono scattate le ricerche in mare, 3 i barconi arrivati invece, l'ultimo poco fa, con oltre 200 persone a bordo. Oltre 1000 le persone che si attendono entro oggi sull'isola. Sul molo si sta preparando la prima accoglienza affidata al centro di accoglienza di Lampedusa diretto da Cono Galipò. Sì, siamo pronti per far fronte a tutti gli sbarchi. E poi dove li metterete? Avete già un'idea di come sistemarli? Abbiamo delle strutture oltre i 2 centri, che sono la base Loren e il centro Imbriacola. Abbiamo delle strutture che il Comune ha messo a disposizione da sempre, quindi che è la riserva marina e la stazione marittima. Ma sono... Perché già siamo allertati. Già al porto già c'è il direttore del centro, che sta, così come stamattina ha fatto il primo sbarco, seguirà personalmente tutti gli sbarchi di oggi. La prima necessità? Certo, noi come sbarcano diamo intanto la prima accoglienza con del latte, con dell'acqua, delle brioche e, se ci sono esigenze, anche con coperte termiche, quelle ospedaliere. Non appena arrivano al centro diamo tutto il kit del vestiario, del kit igiene, che consiste nella tuta, pantaloni, camicia, magliette, la scheda telefonica, le sigarette, cioè abbiamo tutto. Avete 1000 kit pronti, 1000 in arrivo, grosso modo? No, ne abbiamo 1500 pronti, ma ne possiamo fare fino a 4000, 5000, perché siamo alla merce tutta su Lampedusa. E naturalmente continueremo a raccontarvi quel che succede a Lampedusa. Sono le ultime ore di campagna elettorale, una campagna decisamente dai toni accesi. Oggi gli ultimi appelli dei candidati. Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno. 10 ore dunque alla chiusura della campagna elettorale, con i leader nazionali impegnati da nord a sud nei duelli più delicati. Il presidente del Consiglio Berlusconi alle 17.30 sarà a Napoli, città che ospiterà nel pomeriggio anche Di Pietro. Bossi alle 18.30 sarà a Milano a fianco della Moratti. Pisapia in serata in Piazza Duomo con concerto di Vecchioni. Anche Grillo chiuderà la sua campagna elettorale a Milano. Bologna vedrà invece la presenza dei leader dell'opposizione. Fini e Casini interverranno alle 18 in appoggio del candidato del Terzo Polo. Bersani parlerà invece alle 20.30 in Piazza Maggiore. Quanto alle polemiche delle ultime ore di campagna elettorale, in primo piano resta l'annuncio fatto a Napoli da Berlusconi circa un provvedimento che sarebbe pronto per non abbattere le case abusive. Critico il centro-sinistra, in disaccordo anche la Lega, sicuramente Berlusconi, commenta Calderoli, dovrà parlarne anche con noi. Infine la corsa per Milano, nessuna scusa da parte della Moratti a Pisapia per le accuse di aver frequentato dei terroristi, non ha mai rinnegato i suoi trascorsi extraparlamentari. Attacca la Moratti, mai frequentato terroristi, estremista e lei, replica Pisapia. E da Roma è tutto. Grazie Vincenzo Miglietta. Aggiungiamo che la mattina di lunedì prossimo Silvio Berlusconi sarà all'udienza del processo Mills in tribunale a Milano, lo ha confermato poco fa uno dei suoi legali. Lunedì fino alle 15 a Milano si voterà per le comunali e Silvio Berlusconi è il capolista del PDL. A seggi aperti i candidati devono rispettare il silenzio elettorale. Io saluto Stefano Folli, buongiorno. Buongiorno. Innanzitutto a te e ai nostri ascoltatori do il risultato del sondaggio di Radio 24 di questa mattina. Parlavamo di amministrative, abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori: vi sono piaciuti i toni della campagna elettorale? Il risultato è stato sì il 10%, no il 90%. Perché allora questi temi, Stefano? Perché l'attacco della Moratti a Pisapia? Perché i toni forti? Se pare, eppure dietro c'era una strategia secondo te o no? Sì, no, certo che c'è una strategia, c'è l'idea che radicalizzando molto lo scontro si mobilita l'attenzione, si occupa la scena mediatica e si portano ai seggi, con questa inattenzione drammatica, degli elettori che altrimenti sarebbero distratti. Io ho l'impressione però che questa tendenza, che non nasce oggi, perché il nostro bipolarismo è sempre stato, salvo eccezioni, tendenzialmente a sfondo drammatico, tendenzialmente radicaleggiante nelle sue manifestazioni, ebbene tutto questo possa invece non ottenere il risultato, non mi riferisco essenzialmente soltanto alla Moratti, mi riferisco un po' a tutto il clima di questa campagna, che certamente però è in Milano il punto focale. E se questo sondaggio che ha fatto Radio 24, anche se non è scientifico, dà questo risultato, significa che la gente è più che altro sconcertata da tutto questo, e quindi c'è il rischio che in realtà questa radicalizzazione e drammatizzazione porti a una disaffezione dal voto piuttosto che a una maggiore partecipazione. Diciamo, la previsione che possiamo fare alla vigilia è quella di che vedremo, nonostante in genere le amministrative abbiano più partecipazione perché più vicine rispetto alle politiche, secondo te invece in pochi andranno alle urne? Allora, è chiaro che il voto amministrativo nelle grandi città ha sempre un significato politico, no? È assurdo pensare. E Milano quest'anno più che mai, perché si è fatta campagna così. Ma sempre, la stagione di Berlusconi cominciò a Roma nel 1993, quando ci fu lo scontro tra Rutelli e Fini, no? Fu allora che nacque di fatto, diciamo, la discesa in campo di Berlusconi. Anche quel voto aveva una fortissima incidenza politica, sarà così anche quest'anno, e questo non mi scandalizza. Trovo però, ripeto, che si sia esagerato, che si sia andati al di là del giusto, e che tutto questo possa determinare poi dei risultati diversi da quelli attesi, ma comunque soprattutto tutto ciò non ha fatto bene al nostro dibattito civile, al nostro dibattito politico, vedi anche i continui richiami del Presidente della Repubblica, che non sono richiami a un bipolarismo smorto e timido, ma sono la necessità di tenere al centro sempre comunque i temi che interessano alla gente. Ecco, il rischio è che si parli di cose che non interessano veramente l'opinione pubblica, e questo fa male al nostro sistema politico in tutte le sue varianti. Grazie a Stefano Folli. Dicevamo, ultime ore di campagna elettorale, sentiremo quali saranno gli ultimi appelli al voto, ma intanto, come ci diceva già Vincenzo Miglietta, un tema lo ha aperto Berlusconi: il prossimo del Consiglio dei Ministri approverà un provvedimento per sospendere per tutto l'anno l'abbattimento di 67.000 case abusive in campagna, ha detto il Premier. E allora Valeria De Rosa ha chiesto a Federico Oliva, presidente dell'Istituto Nazionale di Urbanistica, se il piano per la demolizione è un piano fattibile e come si esce da questa che in Campania è un'emergenza ormai da anni. Io non so se sia un piano o sia semplicemente la sommatoria delle illegalità che sono state censite e che non sono sanabili ai sensi della normativa vigente, perché oggi l'abusivismo non è tutto da demolire secondo le norme italiane, no? I vari condoni hanno selezionato gli edifici che devono essere abbattuti necessariamente, perché compatibili con qualsiasi progetto di recupero, da quelli che invece possono essere sanati. Certamente non c'è e non fa parte delle possibilità di intervento dello Stato o della Regione in questo momento. L'uscita è un'uscita chiaramente elettorale ed è una specie di ulteriore condono che si propone per la Campania. È una cosa che dobbiamo affrontare in quella regione lì, con le specificità che lì si pongono, attraverso un'operazione di risanamento urbanistico territoriale immane, un'operazione gigantesca che però secondo me innanzitutto passa dall'arresto di questo fenomeno, che invece continua tranquillamente ancora in atto senza che lo Stato abbia gli strumenti per arrestarlo definitivamente. Da quando sono iniziati i condoni edilizi l'abusivismo è cresciuto, ha cambiato natura, ha cambiato faccia, ma continua ad esistere. Sospensione fino alla fine dell'anno è una misura italiana proprio assolutamente ridicola. Questi problemi o si affrontano in un senso o si affrontano nell'altro. Le 13:18 minuti, le notizie di oggi di GR24, scomparso un barcone in difficoltà nelle acque di Lampedusa, oltre 1.000 i profughi in arrivo. L'Italia cresce meno dell'Europa, Bruxelles, la Germania locomotiva per uscire dalla crisi. Campagna elettorale, ultimo giorno tra appelli e polemiche, Berlusconi candidato a Milano, lunedì sarà in tribunale. E riprendiamo andando in Pakistan. La prima risposta all'uccisione di Bin Laden, così i talebani hanno rivendicato l'attentato di questa mattina. L'ultimo bilancio delle vittime è di 87 morti e 115 feriti. Il duplice attentato che ha colpito il nord-ovest del Pakistan è il più cruento da novembre. Due le esplosioni che hanno fatto strage tra le reclute di un centro di addestramento delle guardie di frontiera nel distretto di Kharsadda. Prima l'azione di un kamikaze, poi un altro scoppio su cui ancora si indaga. L'attentato è stato rivendicato dai talebani pakistani del TPP che dal 2007 hanno stretto un'alleanza con Al-Qaeda. È il primo atto di vendetta per il martirio di Osama Bin Laden, ha dichiarato un portavoce minacciando attentati più gravi in Pakistan e in Afghanistan. A 11 giorni dal blitz dei Navy Seals ad Abbottabad, gli estremisti alzano dunque il tiro, mentre il clima tra Pakistan e Stati Uniti resta pessimo. Il premier pakistano Gilani, intervistato da Time, ha proposto che gli attacchi dei droni statunitensi in territorio pakistano siano posti sotto il controllo di Islamabad, mentre il numero 2 dell'esercito pakistano, Winne, ha annullato una visita negli Stati Uniti. A Washington, d'altronde, si rafforzano i sospetti sulle collusioni fra i servizi pakistani e Bin Laden. Un funzionario americano ha rivelato alla CNN che il leader di Al-Qaeda si sentiva molto sicuro ad Abbottabad e che nel covo è stato ritrovato molto più materiale di quanto previsto. Paolo Piacenza, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Andiamo in Spagna. Il terremoto ha sido duro, fuerte, ha tenido impacto. Però è più forte questo paese. Il terremoto è stato forte, ma questo paese è più forte. Le parole che sentite sono quelle del premier Zapatero oggi a Lorca per i funerali delle vittime del terremoto di mercoledì. Zapatero ha visitato questa mattina la città annunciando il rapido avvio della ricostruzione. Il terremoto ha fatto 9 morti e oltre 200 feriti. Metà della casa della città è ancora inagibile. Il 10% circa dovrà essere distrutto perché danneggiato nella struttura. 30 anni fa l'attentato a Karol Wojtyla, 3 decenni dopo restano ancora misteri sulle indagini e su chi tentò di uccidere il pontefice. Maggio 1981, 30 anni fa, l'attentato a Giovanni Paolo II. Dopo 3 decenni, il Papa polacco è salito agli onori degli altari, ma su quegli spari in piazza San Pietro restano ancora misteri e domande, come quelle sul secondo uomo che, secondo Ilario Martella, giudice e istruttore del caso, sparò insieme con Ali Agca. Fatto una ricostruzione balistica aderente, diciamo, alle nuove risultanze, avalla ampiamente il convincimento che a sparare siano stati in due, tanto più che uno dei due, cioè dire non Agca che venne arrestato, ma l'altro, è stato fotografato mentre corre impugnando una pistola. Se tutti ormai sono concordi nel ritenere che gli indizi conducono verso la pista turco-bulgara e quindi verso il complotto internazionale, altrettanto chiaro è per chi indagò su quell'attentato il legame con la scomparsa di Emanuela Orlandi. La famiglia è sicura che la ragazza sia ancora viva e per questo, attraverso il magistrato Ferdinando Imposimato, chiede a Benedetto XVI aiuto. La stessa mamma, Maria Pezzano, ha chiesto ufficialmente un intervento del Vaticano che l'aiutasse a completare le indagini per la individuazione del luogo in cui si trova Emanuele Orlandi. Raffaella Calandra, Radio 24, Sole 24 Ore. Questo il servizio di Raffaella Calandra. Vi ricordo che ai 30 anni dell'attentato a Wojtyla è dedicata la puntata di domani di Storiacce a quest'ora alle 13:15. I giovani imparano a leggere i giornali a Bagnaia, l'ormai consueto appuntamento. Saluto Gianfranco Fabi. L'incontro dell'Osservatorio Giovani Editori, che è il protagonista dell'iniziativa Il Quotidiano in Classe, iniziativa che ha ormai raggiunto i 10 anni e che coinvolge, ha coinvolto nell'ultimo anno 1.800.000 studenti. L'animatore, il presidente dell'Osservatorio Giovani Editori, animatore, presidente e fondatore è Andrea Cicchellini, che abbiamo con noi e gli chiediamo innanzitutto se è soddisfatto di questi 10 anni e il programma in 30 secondi dei prossimi 10 anni. Molto soddisfatto, soprattutto che questo progetto continui a svolgere la funzione per la quale nasce, cioè quello che in una società dove se ne sa sempre di più, ma se ne capisce sempre meno, ci possa essere un momento per riflettere, per pensare, per andare a fondo e per non farsi travolgere dalla velocità dei fatti, per restare capaci di farci un'opinione propria. Grazie ad Andrea Cipperini, grazie dal Bobo della Bagnaia, buona giornata. E grazie a Gianfranco Fabi. Così i giornali, i giovani leggono invece i libri al Salone del Libro di Torino, si analizza l'andamento del mercato editoriale, anche qui la nostra inviata. Dove si vendono i libri e quali vanno per la maggiore? A queste domande risponde una ricerca Nielsen presentata al Salone del Libro di Torino. I libri vengono venduti soprattutto, nel 40% dei casi, nelle librerie di catena. Seguono con il 38% le librerie indipendenti, la grande distribuzione e infine internet, dove vengono venduti il 4,3% dei libri. Preferita soprattutto la fiction, ossia la narrativa, nel 36% dei casi. Segue la non fiction generale, ossia la saggistica. Altri tipi di non fiction, come la manualistica, infine i libri per bambini e ragazzi nel 13,7% dei casi. Ma come sta andando il mercato del libro? Nel 2010 è andato bene, registrando a valore un più 3,3% rispetto al 2009. Paolo Duranti, curatore della ricerca Nielsen. Il mercato del libro nel 2010 chiude con un segno moderatamente positivo, legato al fatto che sostanzialmente tutti i generi letterari più o meno hanno mantenuto i loro livelli di vendita rispetto all'anno precedente, anzi aumentandoli leggermente. Le note un po' dolenti arrivano con il 2011. Nei primi tre mesi c'è stato un calo dello 0,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, colpa forse anche della mancanza di un vero bestseller. Alessandra Tedesco, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Torino. E da Torino vi aspetta anche Carlo Genta alle 14 per Parla a Spicchi. Vi ricordo, parleremo tra l'altro anche del rilancio proprio del basket torinese dopo la giornata di campionato di ieri. Ora invece c'è il Giro d'Italia in regia Filippo Aureggi, Danna Migliorati, una buona giornata. GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Fabio Tamburini.